in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Oggi è una di quelle giornate, di quelle domeniche, nelle quali i titoli sono abbastanza diversi da quotidiano a quotidiano. Cominciamo col Sole 24 Ore, che si focalizza su un tema molto importante, essendo il nostro un paese manifatturiero, ed è quello per degli incentivi alle imprese. Il titolo è 5 miliardi restano al palo. Il Ministero dello Sviluppo Economico dimezza l'arretrato, ma resta consistente la quota non spesa. Sono stati però sbloccati 600 milioni destinati anche alla cosiddetta industria 4.0. Trovate tutto a pagina 3 per capire appunto che cosa, se si riuscirà, visto che il motore delle imprese, dell'industria manifatturiera è quello più potrebbe veramente far uscire il nostro paese dalla crisi e dalla lentissima ripresa che stiamo vivendo. E appunto trovate tutta questa, la questione degli incentivi. In prima pagina richiamata un'intervista a Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, ma soprattutto ora che pare veramente si avvicinino le elezioni anticipate, anticipate quindi al 2017 anziché alla naturale scadenza della legislatura, che sarà nel 2018, e quindi soprattutto è candidato in pectore come premier in un eventuale governo guidato dal Movimento 5 Stelle. Il titolo scelto dall'intervista di Manuela Perrone: sì al taglio del cuneo, il cuneo fiscale naturalmente, più investimenti e poi calo dell'IVA. Sapete che nelle ultime settimane si era parlato addirittura di un aumento dell'IVA per far fronte eventualmente alle clausole di salvaguardia volute dall'Unione Europea, se la nostra manovra dovesse sfondare, come forse non succederà visto l'aumento del PIL leggermente più alto del previsto. Se la nostra manovra dovesse sfondare i parametri, quindi il debito pubblico salire ancora, ci sarebbe per esempio una clausola di salvaguardia che prevede l'aumento dell'IVA. Di Maio dice addirittura che la farebbe scendere. Il Corriere della Sera invece titola sulla discussione ancora in fieri. Oggi incredibilmente i nostri parlamentari lavoreranno e lavoreranno anche alla legge elettorale, vari emendamenti, vedremo poi che cosa succederà. E comunque quello che il Corriere della Sera sintetizza così, quello che è successo ieri: intesa sul voto aumenta la quota proporzionale. Ci sarebbe un accordo a quattro partiti quindi per blindare i collegi. Ci sono tantissime discussioni, non so, magari qualcuno di voi ha sentito ieri la trasmissione I Conti della Belva di Oscar Giannino e l'intervento finale Udo Gumper, che è un giornalista tedesco da molti anni in Italia, e diceva, scherzando, ma neanche poi tanto, che la Germania dovrebbe fare causa all'Italia per il maldestro uso dell'espressione sistema tedesco, perché così viene indicato, comunque con qualche piccola modifica. La nostra legge elettorale si rifarebbe a un supposto modello tedesco, così non è, non esiste per esempio questa cosa dei collegi blindati nel sistema tedesco, che è una delle tante storture delle varie leggi elettorali con le quali abbiamo votato negli ultimi anni. Comunque questo è il titolo scelto dal Corriere della Sera. Una fotonotizia dedicata alla partita di ieri sera a Cardiff, che ha visto il Real Madrid vincere la Coppa del Mondo con la Juventus sconfitta. Ci sono molti giornali che hanno fotonotizie su questo. Il Corriere della Sera poi mette come secondo titolo la notizia che è arrivata abbastanza tardi ieri sera, però comunque molti giornali sono riusciti a metterla, quella dell'attacco sul London Bridge ieri a Londra, un furgone sui passanti, terrore sul London Bridge. Pagina 2 e 3, un approfondimento di Lorenzo Salvia, perché c'è una lettera di Ryanair al governo, che sta cercando sono le ultime ore per raccogliere le offerte per il salvataggio di Alitalia, o comunque il nuovo corso di Alitalia. Ryanair sarebbe pronta ad assumere piloti e hostess. Vi dicevo l'attentato di Londra, su questo la Repubblica sceglie di aprire. Londra ancora terrore, un comando scende da un minibus sul London Bridge, colpisce i passanti, e la Repubblica ricorda giustamente a 5 giorni dal voto, perché l'8 giugno, a proposito di elezioni anticipate, nel Regno Unito si vota, perché sono elezioni convocate dalla Premier Theresa May, che spera così di avere un mandato più forte per andare avanti con i negoziati sulla Brexit. La fotonotizia è collegata alla partita di Champions, ma è stata scattata non a Cardiff ma a Torino, dove sapete c'è stato per il crollo di alcune delle transenne che erano state messe per circondare la zona in cui i tifosi potevano seguire dai maxi schermi la partita da Piazza San Carlo. C'è stato il panico quando alcune di queste transenne sono crollate, i feriti sarebbero addirittura 600. Poi vi segnalo la maca di Michele Serra, un fatto di cronaca che non è stato proprio di sport, non è stato molto sottolineato, ed è quello della ragazza iraniana che aveva messo uno striscione durante la partita di volley Italia-Iran. Lasciate che le iraniane vadano allo stadio perché nel suo paese non possono andarci. Michele Serra ce lo ricorda. Mi fa specie però questo attacco di Michele Serra, che ogni tanto evidentemente anche lui si lascia andare a qualche luogo comune di troppo. Sentite cosa scrive: non si può pretendere che le nostre forze dell'ordine trattino con quello che guadagnano trattino siano esperte di politica internazionale. Sicuramente le forze dell'ordine è già qui. Ricordo un giornalista, un direttore famoso, che diceva: perché esistono le forze del disordine? In ogni caso sappiamo benissimo di chi stiamo parlando: i poliziotti, i carabinieri, la guardia di finanza, insomma le cosiddette appunto forze dell'ordine hanno stipendi molto bassi. Dire che invece se avessero uno stipendio più alto magari sarebbero più esperti di politica estera non lo capisco tanto, perché purtroppo abbiamo tantissime persone con mezzi economici altissimi che sicuramente della politica estera se ne infischiano e non dedicano particolari risorse dei loro budget personali a informarsi o a leggere o magari addirittura andare all'estero a vedere appunto le cose con i loro occhi. Ma quindi mi è sembrato così molto molto strano da parte poi di Michele Serra, quindi ve l'ho segnalato, ma è una nota di colore, visto che comunque è sulla prima pagina della Repubblica. La Stampa sceglie di titolare su un'intervista che ha a Maria Elena Boschi, sottosegretaria al governo Gentiloni, che parla un po' di tutto. Tra l'altro questa intervista è fatta da Linda Laura Sabbadini, che probabilmente è un nome, una voce familiare agli ascoltatori di Radio 24, interviene spesso alla trasmissione di Maria Lattella che ci sarà oggi. Il titolo dell'intervista, scelto per l'intervista, è con il Movimento 5 Stelle dialogo sui diritti, e sotto inteso su molte altre cose no. Tra l'altro è scivolato sotto la Stampa, ma con la Repubblica come ogni domenica in edicola L'Espresso, che tra l'altro la copertina è dedicata proprio al voto, anzi c'è scritto voto e rivoto. Ci apprestiamo alla campagna elettorale, se è vero che si voterà poi finite le vacanze, e l'Espresso definisce questa imminente campagna elettorale una campagna balneare che si annuncia senza vincitori. Ecco perché l'Italia rischia urne a ripetizione dopo la legislatura che l'Espresso definisce più pazza del mondo: 3 governi, 2 capi di Stato, 2 leggi elettorali. Il Messaggero titola a sua volta sull'evoluzione di queste discussioni che sono in corso sulla legge elettorale. Abbiamo detto questa intesa a 4, cioè tra Partito Democratico, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Lega. Ci saranno meno seggi nell'uninominale, però garantiti, eccoci qua ai seggi garantiti, circoscrizioni sono da riscrivere. C'è chi comunque è molto critico, vedremo come andrà a finire, perché secondo il Messaggero stasera sarà pronto il testo. Fotonotizia dedicata alla partita di Cardiff, come per il Corriere la foto è quella di Ronaldo che esulta alla fine della partita. Ronaldo, autore dei quattro gol del 4-1 con il quale il Real Madrid ha sconfitto la Juventus. La Gazzetta dello Sport a questo punto ve la segnalo subito. Il titolo principale è maledizione punto esclamativo. La foto in questo caso non è di Ronaldo ma di Gigi Buffon, il portiere della Juventus, e Chiellini che alla fine della partita ovviamente immaginate le espressioni. Comunque, per chi è appassionato di calcio o in particolare di Juventus, vi segnalo che le prime 32 pagine della Gazzetta dello Sport sono dedicate a questa finale di Champions. La Verità titola: preparano il raddoppio delle tasse sulla casa. Tra le molte indiscrezioni di una manovra barra manovrina che sta ancora prendendo forma, c'è quella che appunto potrebbero aumentare le tasse sulla casa, e secondo La Verità succederà questo. L'editoriale è del direttore Maurizio Belpietro. Sugli immobili è più facile la patrimoniale. Ultimo titolo che vi segnalo prima di una breve pausa, in cui sentiremo anche gli aggiornamenti sul metro, sul meteo. Oggi l'Italia è un po' divisa in due da quel punto di vista. È un titolo molto interessante, quello del Manifesto: posto sicuro. Il riferimento è all'Afghanistan, che è un paese che veramente non trova pace. Scrive il Manifesto, ci ricorda il Manifesto: in Afghanistan è strage infinita. C'è stato da pochi giorni un attentato a Kabul che ha fatto più di 100 morti. Ieri la polizia venerdì ha sparato sulla folla, e ieri c'è stato un attacco al funerale delle vittime. È una guerra, ricorda il Manifesto, che coinvolge l'Occidente da 16 anni, e Trump sta per inviare 3.000 marine. Un paese che consideriamo sicuro solo per ricacciarci i profughi. Questo è il riferimento al fatto che alcuni paesi, tra i quali la Germania, sta rimandando in Afghanistan i profughi, definendo il paese appunto un paese ormai sicuro. Ma ci lasciamo un attimo per una breve pausa. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle copertine, sulle prime pagine dei giornali. Quella di Libero si richiama a un'intervista che Libero ha fatto a Matteo Salvini, ed è intitolato l'intervista "Silvio non ci aiuta". Il leader leghista parla soprattutto del futuro del centrodestra e critica appunto Berlusconi, che ha più volte ripetuto nei giorni scorsi che finché Salvini mantiene un certo tipo di posizioni non ci può essere una nuova alleanza tra Forza Italia e la Lega. Il Fatto Quotidiano titola sulla legge elettorale: Movimento 5 Stelle vuole cambiare ma sui nominati si arrende a Renzi e B sta per Berlusconi. Dopodiché leggevo con anche interesse, perché è molto chiaro, l'editoriale di Marco Travaglio: Italia-Germania 3-0, e naturalmente il richiamo è alla famosa partita di calcio, dove Travaglio spiega, come dicevamo anche prima, che è improprio chiamare questa eventuale nuova legge elettorale una legge alla tedesca. Spiega perché, lo fa in modo molto chiaro. Dopodiché però la vignetta sulla prima pagina del Fatto Quotidiano è terrificante, non so, è più che cattivo gusto, perché si richiama all'olocausto. È difficile mostrare, non si può mostrare una vignetta, però ve la leggo, di questo Natangelo. C'è un omino con il classico pigiama a righe bianche e nere, che richiama a tutti la divisa che facevano indossare i nazisti nei campi di concentramento. Il titolo: sistema tedesco, l'ultimo consiglio dei ministri di Gentiloni. Il fumetto è: alle schnell docce, cioè schnell vuol dire veloci, andate alle docce velocemente. E poi Gentiloni che dice: tranquilli ragazzi, mi hanno garantito che sono vere docce. Perché sapete che purtroppo una delle cose che si è saputo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale è che gli ebrei che venivano mandati nelle camere a gas, a questi ebrei veniva detto che venivano mandati a fare la doccia. Vedete un po' voi che senso ha fare una vignetta così oggi. Il Giornale invece, vi dicevo, la posizione di Berlusconi sulle possibili alleanze in vista del voto anticipato. Il Giornale ha un'intervista a Berlusconi che dice: centrodestra mai con Renzi, divisi alle urne, uniti al governo. E sulla questione della possibile alleanza con la Lega dice Silvio Berlusconi: Forza Italia cambierà molti volti, ma chi è stato bravo e leale non deve temere, con Lega e Fratelli d'Italia insieme dopo il voto. Avvenire invece ha una, anche Avvenire oggi titola su un'intervista ed è quella al nuovo presidente della CEI, il cardinale Gualtiero Bassetti, una chiesa che impari dai poveri, una lunga intervista che trovate alle pagine 6 e 7. Passiamo alle pagine interne e torniamo sul Sole 24 Ore, come sapete ogni domenica la pagina dedicata a sport e business e oggi più che alla Champions, di cui si è occupato molto il Sole 24 Ore dal punto di vista economico e anche Radio 24 nei giorni scorsi, oggi si parla del Gran Premio d'Italia. Al Mugello si corre il Gran Premio d'Italia, un affare da 11 milioni per quel territorio. Tra l'altro ringrazio tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666 o SMS o WhatsApp, in particolare Marco, che è un agente della Polizia di Stato e ci ricorda, ci dice che lui ha una laurea triennale in relazioni internazionali, ma che in Italia il sistema di arruolamento prevede come minimo necessario la terza media. E quindi dice non c'è una vera meritocrazia interna e ci ricorda anche che per esempio negli Stati Uniti per entrare appunto nell'equivalente della Polizia di Stato ci vogliono 2 anni di college. E questo secondo me è un tema molto interessante e resto dell'idea che non c'entra nulla con le disponibilità economiche, il desiderio o anche la volontà di informarsi, di farsi, di leggere soprattutto, di ascoltare per farsi un'idea della complessa, sempre complessa, sempre più complessa geopolitica internazionale. E però ha sicuramente ragione anche questo ascoltatore che dice forse dovremmo comunque introdurre dei requisiti diversi di istruzione per chi poi deve occuparsi di sicurezza a livello nazionale, ma poi inevitabilmente anche guardare a livello internazionale. Oggi è domenica, quindi siamo all'ottava puntata del viaggio di Carlo Ossola nell'anima dell'Europa e la puntata di questa settimana è Ankara. La Turchia, leggere Ankara per capire Roma, il potere fondativo del Monumentum Anciranum che canta le gesta e i donativi di Augusto. Nella capitale turca di oggi avanzano nuove dittature, lo sappiamo, quella di Erdogan, ma quella peggiore sarebbe quella dell'oblio, dimenticare il ruolo di questa parte di mondo. E invece poi sapete alla domenica c'è anche l'altra parte di queste iniziative domenicali, sono le interviste. Questa settimana è un'intervista a Giovanna Furlanetto, presidente di Furla. Devo aggiungere per correttezza che questa intervista l'ho fatta io, però insomma autocensurarmi, che cito sempre le interviste della domenica, non è tanto perché assolutamente perché l'ho fatta io, ma è Giovanna Furlanetto, presidente di Furla, che è un'azienda fondata nel 1927 e che è una delle poche multinazionali tascabili italiane. Una storia interessantissima quella di Furla e un personaggio altrettanto interessante, appunto Giovanna Furlanetto, la trovate a pagina 16. Sul Corriere della Sera vi segnalo invece un'intervista a Marco Minniti, ministro dell'interno del governo Gentiloni, ha sostituito come sapete Angelino Alfano che è diventato ministro degli esteri, ha cambiato molto alcune politiche sull'immigrazione. In questa intervista, che tra l'altro gli fa Milena Gabanelli, parla anche della questione delle ONG in mare, sfida alle ONG del mare, siete libere, chiede Minniti retoricamente, portate i salvati in altri paesi dell'Unione Europea. E parla di tantissime altre cose, compreso il concerto di Vasco Rossi che porterà 220.000 fan a Modena, nella sua città natale. E anche su questo è un tema di sicurezza che quindi compete, c'è anche un tema di sicurezza che quindi compete al Ministero dell'Interno e anche su questo il Ministro risponde, anche perché sappiamo che dopo quello che è successo a Manchester durante il concerto di Ariana Grande la sicurezza si pone come non mai come una priorità quando si organizzano questi concerti, soprattutto con spettatori come era nel caso di Ariana Grande, molto giovani e addirittura minorenni. Dalle pagine interne invece della Repubblica un'altra intervista, questa a Franco Roberti dell'Antimafia, che parla di un provvedimento che è fermo da oltre 3 anni, che aggiornerebbe le norme vigenti sulla lotta alla criminalità organizzata e il procuratore nazionale appunto Franco Roberti spiega: senza il codice ci si arrende alla corruzione. A proposito di cambiamenti climatici, naturalmente ha fatto notizia qualche giorno fa l'annuncio di Donald Trump che gli Stati Uniti non aderiranno più, si sfileranno dall'accordo siglato a Parigi sul clima. Uno dei tanti problemi del clima di questo nostro pianeta è il riscaldamento globale, e uno dei tanti segnali di questo riscaldamento globale, oltre al clima pazzo che sperimentiamo un po' tutti, è lo scioglimento dei ghiacci. E allora Elena Dusi, a pagina 17 della Repubblica, ci racconta quel gigante di ghiaccio che si stacca dall'Antartide. C'è una frattura, pensate, di 200 km sulla piattaforma che si chiama Larsen C. Ne mancano solo 13, produrrà un iceberg tra i più grandi, pensate, esteso come la Liguria e alto 350 metri. Un interessantissimo reportage sulla Stampa, le pagine 8 e 9, dall'Uganda. Con i profughi dell'Uganda, sopravvissuti mangiando erba, sparavano anche sui bambini. Pensate, ogni anno 1 milione di migranti rischia la vita per scappare dal sud del Sudan, dove c'è la guerra civile, c'è la carestia, c'è la siccità, e molti disperati vengono uccisi nel tragitto. Ci lasciamo un attimo per una pausa sul traffico e ci ritroviamo per l'ultima parte della rassegna dedicata ai supplementi domenicali. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli, ben ritrovati per l'ultima parte della nostra rassegna dedicata ai supplementi la domenica. Prima però dal giornale, visto che spero molti di voi da qui ai prossimi mesi faranno un periodo di vacanza e porteranno con sé i loro animali. A pagina 18 del giornale, Oscar Grazioli, vacanze con il cane, se volate in questi paesi meglio lasciarlo a casa. Eccola l'elenco delle razze bandite all'estero. In Italia non ci sono problemi, però per esempio in Inghilterra, ma Oscar Grazioli racconta anche di tutti gli altri paesi, vogliono una documentazione antirabbica, in Spagna un certificato legale, pagina 18 del giornale. E una segnalazione invece da Libero, quando si dice, qualcuno l'ha detto in passato, nel specifico Giulio Tremonti, che con la cultura non si mangia, negli Stati Uniti, dove la maggior parte dei musei hanno pochi fondi pubblici, molti fondi privati e biglietti più cari mediamente dei nostri, ma in questo modo riescono ad autofinanziarsi, il Libero ci racconta che a New York sono in corso tantissimi lavori di ampliamento, ristrutturazione e miglioramento dei musei, in particolare il MoMA, che investirà 450 milioni per restaurarsi nel 2019, quando compirà 80 anni, avrà appunto sarà ancora più bello e probabilmente sempre più visitato. Dicevamo i supplementi della domenica, cominciamo come sempre dalla domenica del Sole 24 Ore e dal breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi, visto che tra l'altro abbiamo parlato di calcio, si intitola Un pallone. La citazione è da un'intervista alla teologa Dorothee Sölle, che una giornalista che rispose a questa domanda della giornalista: come spiegherebbe la felicità a un bambino? E la teologa rispose: non glielo spiegherei, gli darei un pallone per giocare. Nata a Colonia nel 1929 in una famiglia altoborghese protestante, Dorothee Sölle si dedicò ben presto agli studi umanistici che la condussero alla teologia, della quale divenne docente universitaria sia a Magonza sia a New York. La sua fu una concezione di forte impronta sociale. Cristo vero uomo ci rende presente e operante in noi, il Dio trascendente assente. In ultima analisi, anche la festa di Pentecoste è legata allo spirito di Dio visto come respiro di vita, di libertà e di fede che attraversa l'anima della persona umana. In questa luce riusciamo a comprendere la battuta che abbiamo citato. È nell'atto gratuito, incarnato nel gioco, che scopriamo la pienezza della vita. È nell'amore autentico, che è donazione libera e totale, che gustiamo la felicità pura. Riducendo il gioco ad affare sportivo con un giro vorticoso di interessi e l'amore a una mera esperienza di godimento sessuale, abbiamo perso il sapore della libertà e della gioia genuina. Non sappiamo più giocare in senso genuino ed è per questo che non conosciamo più la vera festa e la felicità intatta. La copertina vera e propria però è di un lungo articolo di Carlo Carena che prende spunto da due libri, si intitola Abbreviate, abbreviate, qualcosa resterà, e ci racconta come gli autori antichi contraevano le parole per risparmiare spazio e materiali, perché ovviamente stampare era, o addirittura se ci si affidava al lavoro degli amanuensi, era appunto molto dispendioso. E oggi invece Carlo Carena fa un parallelo con l'oggi: sappiamo quanto usiamo le abbreviazioni, oggi usiamo Twitter non perché siamo ossessionati da altre cose, ma dalla velocità, appunto la mania di scrivere molto velocemente. Una lunga recensione di Elisabetta Rasì al nuovo libro di Arundhati Roy, la scrittrice indiana, dopo 20 anni dal dio delle piccole cose, ora esce Il ministero della suprema felicità da Guanda, e tra l'altro sarà presentato a Milano il 14 di giugno al Teatro Franco Farenti. Qui comunque c'è appunto una lunga bella recensione del libro, e il titolo della recensione è La forza della diversità. Poi naturalmente il supplemento è arrivato al 31esimo numero, c'è qualcuno che sa leggere le 4 pagine dedicate ai lettori più piccoli. Pezzo principale si intitola e se avvitassimo un po' di memoria a un legno, e il riferimento è a come potrebbe essere più efficace la scuola deve attenuare le distanze di apprendimento tra i bambini frequentando diversi linguaggi, ricorrendo soprattutto a ritmi e musica. Sapete che in Italia per esempio la musica non è molto insegnata nelle scuole, una cosa naturalmente paradossale, avendo noi una così ricca storia musicale. E poi, dice Franco Lorenzoni, ci deve essere anche più spazio per le nuove tecnologie. La lettura del Corriere della Sera, come sempre, affida la copertina a un artista, questa settimana è Vilfredo Prieto. E vi segnalo dall'interno una recensione di Teresa Ciabatti, che è anche scrittrice, a due libri che sono in uscita di Joyce Carol Oates, una delle più grandi scrittrici americane viventi. Vengono ripubblicati due suoi libri molto interessanti, erano usciti tra il 66 e il 69. E ci raccontano molto dell'America di quegli anni, ma anche molto dell'America di oggi. Dal passato naturalmente si può sempre capire il presente. Il sogno americano è un incubo, leggete qui. Tra il 1966 e il 69, come vi dicevo, Joyce Carol Oates ha scritto una quadrilogia, della quale escono ora in Italia i primi due romanzi, che si intitolano Il giardino delle delizie e I ricchi. La narratrice anticipa le ossessioni psichedeliche di Bret Easton Ellis, che poi è uno scrittore americano che ebbe molto successo a partire dagli anni 80, e percorre territori che ricordano Isaac Asimov e Philip Dick, che invece sono scrittori identificati soprattutto per le loro opere di fantascienza. Vi segnalo davvero, e soprattutto se siete appassionati di letteratura americana, o semplicemente, come si diceva, vogliamo capire qualcosa dell'America di oggi, questi due libri di Joyce Carol Oates. Un bellissimo articolo di Vincenzo Trione che ci riporta a Venezia, perché alla Biennale di Venezia, tra le tantissime mostre che si possono visitare, ci sono due lavori al Museo Correr di Shirin Neshat, che è una artista iraniana trapiantata però negli Stati Uniti, ormai vive lì dal 1974, e in queste due opere l'artista iraniana ha raccolto le voci delle etnie dell'Azerbaigian su identità e appartenenza, e le ha incise su volti e corpi. Sapete che Shirin Neshat è molto famosa anche per questo uso che fa della scrittura, del bellissimo alfabeto del suo paese, su volti e corpi. Il risultato è un'iconografia sacra che rende omaggio anche a un altro grande del passato, che è il greco. Ci sono alcune foto di queste, sono naturalmente appunto con l'ausilio della tecnologia, perché per esempio c'è il ritratto di un'anziana signora dell'Azerbaigian, le uniche parti del suo corpo scoperte sono il volto e le mani, sulle quali appunto scritte delle parole. In realtà questa signora non è così nella realtà, ma questa è l'opera di Shirin Neshat, che sicuramente, per chi avesse occasione di andare a Venezia, forse una delle cose più interessanti da vedere fuori anche dai padiglioni della Biennale. Robinson, il supplemento della Repubblica, che diventa forse graficamente di settimana in settimana un po' più leggibile. Io l'ho sempre trovato molto, appunto, difficile graficamente. Oggi la copertina si intitola La cultura consuma chi non ce l'ha. Il riferimento è un po' alla famosa battuta di Giulio Andreotti, il potere logora chi non ce l'ha, e ci sono tantissimi dati sul consumo di cultura del nostro paese. Il primo articolo di Robinson è un lungo testo di Roberto Saviano che, sapete, tra le sue molte le molte sfaccettature del suo lavoro di giornalista barra scrittore, intervista anche personaggi della cultura. In questo caso ha incontrato Gali, uno dei musicisti più seguiti sul web, che ora pubblica il primo album. Come tutti i pezzi di Saviano, lui è molto presente persino alla fine. Dice: quando l'intervista finisce ci abbracciamo e andiamo via dopo una pioggia di selfie e foto. Vi segnalo sempre da Robinson un bellissimo reportage di Jane Perrone dalla Fiera di Chelsea, che ogni anno è la più importante appuntamento con i fiori. Tra l'altro la foto di copertina sembra una mano, ma fatta di rose gialle, una foto bellissima già questa, che ci racconta questo grande appuntamento. In Inghilterra è il più importante, ma credo che molte persone, soprattutto dall'Europa, vadano apposta a Londra per vedere questo Chelsea Flower Show. Era l'ultima segnalazione per oggi, purtroppo ci sono ancora tantissime altre cose sui giornali della domenica, come sempre. Un grazie a Carmelo Lauricella in regia, e ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.